Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ecco, Fabbrica 2.4, seconda parte dell'intervista con Mariana Mazzuccato, docente di teoria dell'innovazione all'Università del Sussex, recentemente nominata consigliere del leader laburista Jeremy Corbyn e soprattutto uno degli economisti più influenti al mondo in tema di crescita, di sviluppo economico e di manifattura. Abbiamo interrotto la conversazione di ieri quando si parlava di che cosa ha fatto, sta facendo il governo Renzi per favorire la crescita economica e lo sviluppo delle fabbriche del manifatturiero. E la professoressa esprimeva una certa insoddisfazione, soprattutto per la mancanza di sensibilità ai temi come il ruolo dello Stato, la ricerca e l'innovazione. Ma professoressa Mazzuccato, in realtà nell'estate del 2014 Matteo Renzi era stato visto andare in libreria e comprare il suo libro e dire che l'avrebbe letto con interesse. Sì, io poi gli avevo anche scritto una lettera pubblica in Repubblica dicendo: guarda, forse è meglio che al mare legga una novella e gli dico io esattamente cosa fare dal mio libro. E lì avevo messo dei punti molto chiari che secondo me non sono stati, diciamo, molto aderiti, nel senso che c'è tutta una lotta contro lo Stato, contro la burocrazia, contro il sindacato in Italia. Si parla di investimenti nella scuola, ma gli investimenti netti non sono aumentati e in Italia da 20 anni non ci sono questi investimenti in quello che si potrebbe chiamare il sistema di innovazione. E quindi il punto percentuale di crescita che potremmo vedere quest'anno nel 2016 è un punto percentuale che è provocato solo da grandi fattori internazionali come il calo del prezzo del petrolio, la svalutazione dell'euro, l'aumento del commercio internazionale, ma non da fattori strutturali perché si irrobustisce il sistema industriale italiano. Assolutamente, anzi l'Italia rimane molto molto delicata e vulnerabile a questi andamenti internazionali senza aver arricchito il suo proprio tessuto, diciamo, di investimenti, di innovazione, di manufattura. Ma quello che è interessante è anche chiedersi perché il prezzo del petrolio è crollato. È crollato proprio per via di investimenti pubblici fatti in America su fracking, su shale gas, uh-huh. No? Che è stato da 30 anni guidato dal Dipartimento di Energia. E lì secondo me bisogna capire, proprio pensando al futuro, ma non solo dell'Italia, di tutti i paesi, su che tipo di direzione si potrebbe investire. E proprio perché evitiamo di parlare dello Stato innovatore, dello Stato che investe, non c'è neanche un dibattito poi sulla direzione, perché l'innovazione non ha solo un tasso, anche una direzione. Tutto quello che è successo con l'informatica o con la biotecnologia o con la nanotecnologia sono state scelte fatte dal pubblico che poi assieme al privato hanno, diciamo, fatto delle grandi cose, ma far finta che non ci sono queste scelte da fare rende il paese... Ecco, ma lei quindi che voto darebbe alle politiche economiche e industriali del governo Renzi? Ma diciamo che non l'ho viste, cioè si è parlato molto di alcune cose come il programma della scuola oppure di alleggerire... Però la politica industriale non c'è. No, assolutamente, almeno io non ho sentito parlare, magari ne parlano in qualche ministero in segreto, ma almeno a livello di quello che si può vedere o sentire direi proprio di no. Anzi, credo che c'è proprio un tipo di ideologia dentro il governo Renzi dove si fa finta che il pubblico è il problema e quindi basta alleggerirlo invece di farlo più intelligente, più forte, più innovativo, più smart. Ma allora questo paese ha speranze di riscossa oppure continuerà nella lenta decadenza verso la quale sembra avviato? Ma sì, insomma, basta cambiare un po' attitudine, per esempio anche con la Cassa Depositi e Prestiti, no? Che è in teoria una banca pubblica, ma poi basta confrontarla con quella tedesca che si chiama KfW, con quella cinese che è il China Development Bank, con quella brasiliana che è BNDES, e non è assolutamente una vera banca pubblica. Quindi il seme è lì, ma poi viene gestita sbagliata, cioè è sempre stata vista un po' come al massimo per investire in un po' di infrastruttura, ma non per avere un rapporto di, per esempio, investire, ecco, in aree di alto rischio dove le imprese non, diciamo, non possono fare e quindi creare questi co-investimenti in nuove aree. Ecco, professoressa, le faccio una domanda. L'industria meccanica manifatturiera, che è quella nella quale le aziende italiane sono più presenti, come sta cambiando nel mondo? La risposta ce la darà dopo la pubblicità. Fabbrica 2.4. Eccoci ancora in linea, stiamo parlando con Mariana Mazzuccato, economista dell'Università del Sussex, alla quale avevamo chiesto come sta cambiando nel mondo la manifattura meccanica, che è anche il punto di forza maggiore dell'industria italiana. Ma dipende quello che si vuole dire. Prima di tutto l'industria manifatturiera ha un rapporto con i servizi molto forte e quindi chi riesce, da chi voglio dire a livello, se vuoi, in questo momento del paese, chi riesce a fare delle connessioni molto forti fra manufatturiera, che non riesco a dire bene, manufacturing e servizi, poi alla fine vince. Non so, la Danimarca per esempio oggi non solo produce energia rinnovabile, investe in pannelli solari e il vento, ma sono anche diventati numero uno al mondo come servizi, cioè fanno i servizi per gli investimenti verdi della Cina. Quindi la manifattura si fonde sempre di più con i servizi. Ma quando è fatto in modo intelligente, nel senso che quello che voglio dire è che spesso si distingue manufattura contro o diciamo diversa dai servizi, invece questa divisione è una divisione falsa. Diciamo che i paesi che sono in avanti, che stanno spingendo la frontiera a livello di manifattura, sono anche spesso quelli che riescono anche a creare i servizi. Pensiamo anche all'America con l'informazione, cioè con ICT, come si dice, certo, con IT, non so come dice in Italia, sono riusciti non solo a produrre computer, microchips e l'internet, ma anche tutti i servizi intorno a quella. Ecco, poi ci sono dei trend tecnologici importanti. Uno è l'Industry 4.0, che chiamano anche Internet delle cose, Internet of Things. L'altro è la manifattura additiva e il terzo sono le nanotecnologie. Tutte queste cose dovrebbero in qualche modo sconquassare la manifattura tradizionale. Sì, però alla fine, se pensiamo a come per esempio guidiamo le macchine, non è cambiato molto, cioè le abbiamo riempite di elettronica, computer e di cose, diciamo, di cose digitali, dove anche la nanotecnologia ha avuto un ruolo, però è incredibile se pensiamo che la maggior parte delle macchine hanno ancora il motore combustibile e si guida la macchina in modo identicamente quasi o come si guidava quasi 100 anni fa, quindi non bisogna neanche, diciamo, mitizzare molto tutta questa innovazione che c'è stata nella manifattura. Spesso è stata una cosa anche esteticamente superficiale, nel senso che di nuovo una macchina è piena di gadgets, ma guidiamo è sempre una macchina tradizionale. E anche qua è molto interessante, tornando al discorso pubblico-privato, quando la Fiat è andata in America con l'acquisto del Chrysler, Obama ha forzato la Fiat in investire in motori ibridi, no? Quindi proprio cambiare questo motore che è ancora vecchissimo, che la storia economica anche ci spiega che è stato un caso che abbiamo scelto il motore combustibile, ma questo è un altro discorso. E la cosa interessante è che invece in Italia questo rapporto pubblico-privato non è risultato. E com'è il rapporto di Renzi con Marchionne? Ah, non so, questo è un argomento che sapete meglio voi. No, ma a livello di cose, non rapporto personale. Quando parla con Marchionne non mi sembra che c'è un'attenzione di nuovo sugli investimenti, sull'innovazione. Cioè bisognerebbe avere un patto, un vero patto, dove alcuni sacrifici che possono anche fare i sindacati, dall'altra parte vengono, la controparte è su un investimento sull'innovazione, su un nuovo macchinario, su anche investimenti sul capitale umano. Tutto questo alla fine porta non solo più lavoro, ma lavoro migliore, prodotti migliori che creano anche nuovi mercati, quindi nuova domanda per l'industria italiana. che vuol dire che il lavoratore italiano ha un lavoro, diciamo, più sicuro nel futuro. Questo tipo di discorso non c'è in Italia, ma la stessa Fiat in America è stata forzata dal governo di fare investimenti di innovazione. Ecco, ma in pratica tutte queste cose che lei ci dice e che io personalmente, per quello che vale, condivido, ma sembrano un po' in Italia il libro dei sogni che non ci saranno mai. Ma perché? Basterebbe, cioè, anche il discorso dell'IRI che lei aveva menzionato all'inizio, è molto interessante guardare cosa è successo con l'IRI, perché non c'entra pubblico o privato, c'era un tipo di pubblico in Italia dove c'erano dei manager di altissimo livello che pensavano che era un onore lavorare per un'impresa pubblica come l'IRI. Poi c'è stato un altro momento, l'IRI sempre pubblica, dove i partiti hanno messo le mani e quindi l'hanno distrutta, perché questi tipi di agenzie devono essere assolutamente indipendenti dei partiti. Uh-huh. È stata la fase privata che è stato un disastro, come è stata anche la fase di Telecom Italia, quando, cioè, è stata la privatizzazione dell'IRI, è stata un disastro. Lì tutta quella storia dell'IRI, invece di semplicemente dire stato imprenditore oppure privato, bisogna capire che dipende proprio come si costruisce, ecco, un'impresa pubblica di quel genere. E proprio per via della dogma, della ideologia contro lo Stato oggi in Italia, io penso che sarà impossibile attrarre dentro dell'apparecchio statale le migliori menti, diciamo. Non scordiamoci che in America, dove moltissime di queste innovazioni vengono, i stessi dipartimenti statali vengono guidati da premi Nobel, perché vedono che è un onore lavorare nello Stato. Quindi Steve Chu, fino a sei mesi fa, era il direttore del Dipartimento di Energia, è un premio Nobel in fisica. Certamente. Senta, ma c'è qualcuno che ha questo tipo di sensibilità in Italia? Ma io penso che ci sarà di sicuro, non so, anche parlando con persone come Franco Bernabè, mi sembra che era assolutamente d'accordo, però alla fine, se non c'è un meccanismo attraverso cui questo tipo di discorso viene fatto in modo sistematico, per esempio attraverso la Confindustria, quando la Confindustria parla col governo, io non sento questo tipo di discorso. Se poi con un No, in realtà questo tipo di discorso la Confindustria lo fa. D'accordo. Però non viene riportato dai giornali e non viene recepito dal governo, ma sul fatto che bisogna rimettere in moto l'industria, fare le politiche industriali e investire sull'innovazione, la Confindustria lo dice, ha prodotto studi, documenti, ricerche, forse è l'unico che lo dice. Certo, però nel discorso pubblico non viene messo in evidenza, ma in realtà lo dice. Sì, ma creare un apporto, come dicevo prima, più, diciamo, mutualistico e non parassitico fra l'industria e il governo, in Italia la Confindustria non lo dice, perché in Italia è pieno di sussidi, e io non sto parlando di sussidi quando parlo del ruolo pubblico, sto parlando di investimenti diretti. Infatti in Italia ci sono molti investimenti indiretti attraverso diversi tipi di incentivi e sussidi. Si sa che questo tipo di aiuto statale funziona molto meno che investimenti diretti, che poi possono essere anche complementati da alcuni tipi di completati da alcuni tipi di meccanismi indiretti, però da soli non funzionano in creare anche proprio le aspettative di dove investire nel futuro dall'impresa stessa. E questo però richiede non solo soldi pubblici, ma anche un patto con l'industria che si rispendano i propri profitti in queste aree. Certo, questo che vuol dire, grandi, insomma, anche sacrifici dalla stessa industria, perché invece di intascarli oppure spenderli in far crescere i stock options, bisogna pensare a investire in macchinario, in capitale umano e in innovazione, in qualsiasi settore. Ecco, ma la politica sicuramente ha delle forti responsabilità e delle grandi colpe, ma colpe e responsabilità forse ce le hanno anche alcune categorie di imprenditori. Assolutamente, però non direi che è una categoria, diciamo, a livello di settore. Alcuni imprenditori, forse le vecchie imprese del vecchio Salotto Buono, le vecchie grandi imprese che c'erano in Italia sono quelle che sono rimaste più insensibili a questo discorso, mentre invece in Italia c'è tutta una generazione di nuove medie imprese che sembra più sensibile all'innovazione, agli investimenti, all'industria. Sì, ma questo bisognerebbe vedere, nel senso che in Italia purtroppo ci sono tantissime piccole imprese, non ce ne sono abbastanza di, diciamo, misura media, che di solito vuol dire dai 400 ai 700 lavoratori, e questo è il problema, capire perché in Italia c'è così tanta piccola impresa e non abbastanza media come c'è in Germania. Cos'è che si può fare per aiutare a crescere la piccola impresa invece di avere il mito della piccola impresa? Quindi non è vero che piccolo è bello. E questo so che è un po' controverso dire, la maggior parte delle piccole imprese, ma non solo in Italia, non sono molto produttive, non sono molto innovative e non creano molto lavoro. Che vuol dire che bisogna anche stare attenti prima di spendere molto dei soldi pubblici in mantenere questo tipo di tessuto di impresa. Bisogna fare di tutto quello che si può fare per permettere alcune di queste piccole imprese a crescere. Ma certo. Senta, purtroppo il tempo è tiranno e si chiude qui la nostra intervista. Io spero che nei prossimi mesi avremo ancora future occasioni di parlare con lei. Intanto la ringrazio e le mando il mio arrivederci. Grazie molto e arrivederci. A presto, professoressa. Bene.